parliamo di consapevolezza, come quando parliamo di qualità dell'essere come l'amore, entriamo sempre in un terreno delicato, sempre se io dico quella seggiola di solito riesco a farmi capire, come dice questo cuscino, sì, ma quando parli di consapevolezza no, non è così semplice, perché uno ha già un'idea in testa di cos'è consapevolezza, è qualcosa di astratto, e uno pensa a quella cosa che ha capito lui, e per ognuno di noi probabilmente sono cose diverse. Io posso essere consapevole delle sensazioni del corpo, posso essere consapevole dei movimenti degli occhi, posso essere consapevole delle piccole movimenti del labbra di Chiara mentre sta scrivendo, di cui forse lei non se ne rende conto, che ognuno scrive a volte, si dice delle cose e labbra fanno così. Sono tanti gli oggetti che possono, la consapevolezza può avere tanti oggetti, tante cose su cui indirizzarsi, può essere più concentrata, più aperta, su tanti modi. Ecco. Questa mattina ci occuperemo di una consapevolezza che ha a che fare con la consapevolezza dei sentimenti. Toccheremo questo tema. Voglio andare subito al solo. Allora, oggi viviamo in un mondo alla rovescia. In tre parole. Eccolo qua. Qui c'è la finanza, qui c'è l'economia, qui c'è il tecnoscienza, politica, e proprio qui all'ultimo posto ci sono gli esseri umani e proprio ultimissimo c'è l'animo umano. Forse dietro l'animo umano ci sono solo le piante e gli animali che, dai quali dipendiamo per la sopravvivenza. Ciò che viene trattato peggio sono le piante e gli animali, poi trattiamo peggio l'animo umano. Così. Quindi ciò che è più importante, diamo massima importanza a ciò che ce n'è di meno e la minima importanza a ciò che ne ha di più. Per questo che un mondo alla rovescia. Mondo correttamente inteso sarebbe un mondo nel quale l'animo umano è al primo posto. E la finanza è proprio l'ultimo, serve a favorire l'economia che serve alla sopravvivenza, che serve a poter educare le persone, ad avere la politica e così. Allora noi ci troviamo oggi in un campo dismorfico veramente potente, perché quasi tutto ciò che viene fatto nel mondo è imprintato da questo, compresa l'educazione. Io parlavo con una professoressa che stava facendo, mi dice, mi ha raccontato questo episodio, era in coda per prendere il caffè dalla macchinetta di caffè che c'è nelle scuole, a un certo punto arriva un allievo, si piazza davanti a lei e ad altri. Allora gli dice, scusa, ma sei arrivato dopo? E sapete cosa gli ha detto questo ragazzo? Gli ha detto, il posto non è di chi viene prima, è di chi lo prende. E io credo che questa risposta ci sia una sintesi fantastica di quello che è, diciamo, l'inconscio che sovradetermina oggi il mondo. Cioè, il posto è di chi lo prende, non di chi ha diritto. Quindi il diritto, la giustizia, ciò che è onesto viene dopo, prima viene l'arrivare, il fare. Sempre questa professoressa mi parlava di un altro ragazzo che, di fronte a una docente che lo richiamava alle sue responsabilità, e questo rispose, ma perché? Lei vuole che io diventi come lei? Il risultato guardi com'è, poi lei va in giro con una banda. Questo ragazzo stava dicendo, io perché dovrei seguire il tuo esempio? Mica mi vieni qua con una BMW, potrei capirlo, ma tu mi chiedi di seguire il tuo esempio e fare quello che mi dici, tu che vai in giro con una Panda vecchia. Non sei un buon modello. Non sei un buon modello. Allora, questo è il mondo in cui ci troviamo oggi. Vorrei dire qualcosa a proposito dell'animo umano. Non mi riferirò a test esoterici, di cui non capisco molto, mi riferisco al buon senso, che portinaio, tabacchino. Naturalmente poi ho letto, non è che sono proprio del tutto ignorante, però mi rifaccio a cose che può capire chiunque, anche una, e che sono trasversali. Allora, quando parliamo di animo umano intendiamo l'essenza dell'uomo, ciò che c'è di meglio dentro l'umano, no? Ciò che distingue l'uomo per esempio da uno scimmione, ecco. Perché da un certo punto di vista siamo scimmie mal riuscite, come ci dice la scienza. Noi siamo scimmie mai riuscite, siamo più molto più fragili delle scimmie normali. Quello che abbiamo sviluppato 250.000 anni fa sono i lobi frontali. I lobi frontali, quella capacità di progettare, nessuno ha mai capito bene come mai si sono sviluppati, però ce l'abbiamo. E da lì poi nasce anche la capacità di progettare, quelle capacità linguistiche, e quindi l'essere umano, a differenza di altri animali, ha generato qualcosa che è nuovo, cioè il linguaggio, la cultura, la storia e tutto quello che sappiamo. È un bene o un male? Beh, per certi aspetti, se lo andate a chiedere a molti animali oggi, è sicuramente un male. La gran parte delle piante vi risponderebbe non c'è mai stata una catastrofe peggiore di questa. Da un altro punto di vista è un bene, cioè c'è un'evoluzione, l'essere umano ha sviluppato qualcosa che prima, per quel che ne possiamo capire, non c'era. Cioè la capacità di mettersi dal punto di vista di altri, la capacità di raccontare la propria storia, di sentire la storia di un altro, di sentire la storia di un popolo, cioè quello che è il passato lo possiamo riattualizzare. Quindi, effettivamente, l'essere umano ha un potenziale di comprensione del mondo che non è data né ai gatti né ai cani. D'altra parte, questa comprensione del mondo può essere utilizzata, come al solito, in due vie: una evolutiva per il bene e un'altra per il male. Molto spesso l'uomo l'ha utilizzata per il male, cioè l'ha utilizzata per produrre armi sempre più sofisticate e generare situazioni addirittura di sterminio di intere popolazioni. Come tutti sapete, tra le società che privilegiavano l'armonia e le società che privilegiavano l'efficienza, sono sopravvissute quelle che privilegiavano l'efficienza. E nell'efficienza intendo anche la capacità di produrre armi. È così che l'Occidente si è imposto al mondo, non perché le sue idee erano migliori. Il colonialismo, nella sua maschera, diceva: noi andiamo nei paesi del terzo mondo perché li aiutiamo a evolvere. Ecco, se noi riguardiamo oggi la storia del colonialismo, è stata una storia di cui c'è solo da vergognarsi, perché popolazioni che avevano una loro armonia, una loro dignità, sono state distrutte dall'Occidente, sfruttate brutalmente. Questo oggi lo sanno quasi tutti. E quindi l'Occidente in quel caso ha prodotto delle fughe. Non tutti sanno che Leopoldo II del Belgio ha sterminato 10 milioni di congolesi su 20 milioni, cioè non sono una cosa da poco. Benissimo. Manifestando però l'intenzione di aiutare i congolesi. Questo è l'aiuto dell'Occidente al terzo mondo. L'Africa ai primi del Novecento non era un paese ricco, ma era un paese dove le persone vivevano dignitosamente e bene. Adesso l'Africa è un luogo di sterminio. Questo è il risultato di una politica occidentale catastrofica per il pianeta. E l'ossatura dell'Occidente cos'è? La filosofia dell'Occidente. E vi ho già detto al seminario scorso, faccio molto breve, che la filosofia dell'Occidente ha dentro un germe tremendo. Un virus che da cui poi deriva il cosiddetto tramonto dell'Occidente. Il virus è presto detto. Il soggetto è separato dall'oggetto che osserva. L'osservatore è separato dall'oggetto osservato. Per cui la conoscenza deriva da questa separazione. Durante il luminismo i filosofi erano potuti entrare in contatto con il pensiero indiano. E dico, ecco cosa ci mancava: il concetto di sé, del sé, della grande mente. Ci mancava questo in Occidente. E i conti cominciavano a tornare per molti filosofi. Poi intervenne Hegel nell'Ottocento. L'intervento di Hegel fu questo: non esiste una filosofia orientale, perché la filosofia, cioè l'amore per la conoscenza, quindi la conoscenza può esistere soltanto se c'è questa separazione. Siccome là non c'è questa separazione, ma c'è confusione tra soggetto e oggetto, là non c'è pensiero. Fine. E questo modo di pensare ha accompagnato tutto, sia prima che dopo Hegel, ha accompagnato tutto il periodo del colonialismo. Per cui quando si andava a colonizzare un paese, si andava a colonizzare in realtà delle scimmie. Questo è quello che si pensava di fare. Ma questo ancora quando c'erano i miei genitori vivi, mio papà mi racconta le cose così. Il fascismo, il Mussolini, considerato grande benefattore d'Italia in quel periodo, nella guerra in Abissinia, ha buttato su queste popolazioni inermi 25 tonnellate di gas letale, spettonellate dagli aerei, cioè sterminava come oggi facciamo con i parassiti, nello stesso modo. Ecco, questa era un'azione civile che andava, l'Italia era un'azione civile che insieme alle altre nazioni civili portavano il bene nel mondo. Capite bene che questo tradimento della verità così forte genera un karma sull'umanità, e oggi lo stiamo pagando molto.